Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo il nostro viaggio nella chimica verde questa sera a Smart City per parlare di un filone di ricerca che mira a sostituire uno dei materiali più diffusi al mondo, forse la plastica che in assoluto conosciamo meglio, quella delle bottiglie dell'acqua. Non so quanti di voi conoscano il nome esatto di questo materiale, polietilenterefthalato, ma il suo acronimo PET è ben conosciuto. Come noto, i polimeri sono strutture formate da tante unità elementari connesse tra loro, per esempio in modo da formare lunghe catene. Ebbene, il PET è un copolimero formato dalla ripetizione di due unità di base, un derivato dell'etilene e un acido, l'acido tereftalico. Ecco, non fatevi spaventare dal gergo chimico che certo non contribuisce a rendere popolare l'argomento, perché non andremo molto oltre questo livello di complessità. Abbiamo un polimero conosciutissimo, il PET, con due ingredienti principali, entrambi derivati dal petrolio. Il tema è come sostituirli con derivati di origine vegetale. Ne parliamo con Stefania Albonetti, professoressa del Dipartimento di Chimica Industriale dell'Università di Bologna. Buonasera Albonetti. Buonasera, buonasera. Allora, come state approcciando questo tema lì all'Università di Bologna, ma insomma un po' in tutto il mondo in realtà? Ma guardi, noi stiamo cercando di sostituire le materie prime, i monomeri che si utilizzano per fare questo polimero che abbiamo chiamato PET, con delle materie prime che si possono ottenere da rinnovabili, quindi che non necessariamente derivano dal petrolio. Nel caso particolare stiamo pensando di sostituire la plastica PET, quindi il come lei diceva, polietilenterefthalato, con il PEF, che è un copolimero che utilizza l'acido furandicarbossilico al posto del terestalico. Ok, d'accordo. Quindi la terminologia, come sempre, sembra molto complessa, ma insomma stiamo parlando di sostituire uno di questi due ingredienti della torta. Che caratteristiche ha questo PEF che volete produrre rispetto al PET che già abbiamo tutti in casa? Guardate, oltre che essere un polimero da rinnovabili, quindi con migliore impatto sull'ambiente, ha delle caratteristiche migliori anche per quanto riguarda, per esempio, una proprietà molto interessante per la persona che va a comprare la bottiglia dell'acqua, cioè non perde per esempio la CO2 che viene inserita nelle bibite gasate, quindi ha migliore proprietà di mantenere i gas all'interno della bottiglia. È più impermeabile ai gas, no? Esatto. PEF è anche molto più resistente, e quindi anche questa è una proprietà molto interessante dal punto di vista dell'applicazione. Ecco, perché oggi, se è così buona questo polimero, perché già non lo utilizziamo? Perché la produzione del monomero di partenza, come dicevamo, questo acido furandicarbossilico, è molto complicata dal petrolio, mentre farlo da materie prime naturali che hanno una struttura molto più complessa di quella diciamo che abbiamo nelle molecole della chimica di base ottenute dal petrolio, è più fattibile, più semplice, perché sono molecole che contengono questi anelli particolari che si chiamano anelli furanici, che sono un po' particolari e permettono ottenere questo materiale in maniera molto più semplice. Diciamo che per certi versi c'è un'inversione di approccio nella chimica verde, mentre la chimica del petrolio punta a ricavare tanti prodotti diversi a partire da pochi prodotti di base, nelle materie vegetali c'è semmai il problema opposto, che ci sono tantissimi composti diversi e semmai bisogna ridurli a un numero limitato di composti simili. Sì, diciamo che si cambia proprio l'approccio, perché mentre nella petrolchimica classica si tende a fare un cracking, quindi decomporre il petrolio in tante materie prime di base molto semplici che poi vengono combinate tra loro, nel caso della chimica dalle biomasse noi facciamo sempre una bioraffineria, ma possiamo ridurre il numero di step di per produrre con composti molto più complessi e molto più interessanti per l'applicazione. Ecco, senta, e quindi questo acido furandicarbossilico da dove si può ricavare in ultima analisi? Diciamo che si può ricavare da una vastissima gamma di biomasse, perché deriva dagli zuccheri, dai carboidrati che sono presenti all'interno di queste biomasse. Naturalmente oggi c'è molto interesse per l'utilizzo di biomasse di tipo lignocellulosica, quindi sì, non di utilizzo legato evitare al gli cibo. Amidi, evitare le colture food. Esatto, sì. Quindi c'è molto interesse per l'utilizzo di scarti vegetali, di agricoltura dedicata, ma su terreni che non sono attualmente utilizzati per la produzione di cibi, anche di scarti alimentari di industrie, quindi dalla cartaria alle aziende che fanno olio, per esempio. Se parliamo di scala industriale, di che scala stiamo parlando? Ma guardi, l'applicazione per esempio per plastiche quali il PET comporta la produzione di milioni di tonnellate annue di questo prodotto, quindi stiamo parlando di quantità piuttosto significative. Grazie, grazie Albonetti. La ringrazio a lei per avermi chiamato, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.